c'è stato un film che da sempre mi ha segnato. Un uomo che ha mollato il posto in cui è nato e se ne è scappato. Ha donato tutto e abbandonato tutti in cerca del suo posto tra cascate e flutti. 22 anni, spalle, io un paio in più. Penso che adesso è il momento, ora o mai più. Ma poi non riesco a partire, qua ci sei tu. Mi hai reso caldo il cuore quando il freddo l'ho reso un igloo. Che stare soli in mezzo a niente, dopo ci si perde. Se pensi a quante cose fatte in due diventan belle. Se pensi a quanti volte hai lasciato alle spalle per fissare la tua meta effimera come farfalle. Ma lo capisco, Chris, anche troppo bene. Che spesso dico parto, poi mi metto le catene. Tengo in cantiere mappe e sogni come puoi vedere. A volte il tuo presente vale molto e te lo vuoi tenere. Ed io lo so già in quanti mi diranno: apprezza ciò che c'hai perché il mondo in fondo è un tiranno. Scusa, devo vederlo coi miei occhi perché son confusa. Assaporare altro prima di assuefarmi a mente chiusa. Dite a mia madre che l'amo quando io partirò. Dite a mio padre che nel dubbio lo ispirerò. E se sarò lontana basta cambiare scala. Tipo una mille da un centimetro che ci separa. Dite a mia madre che l'amo quando io partirò. Dite a mio padre che nel dubbio lo ispirerò. E se sarò lontana nel mappamondo in sala. Cercando vuoto e guarda, solo un palmo ci separa. Dite a mia madre che l'amo, anche se non rimpiazzo un quarto di ciò che ha fatto, un debito infranto. E non lo colmo manco con un palmo colmo di tutto l'oro del mondo. Io la bacio e la ringrazio. Dite a mio padre che è la mia ispirazione vera. Il mio tramonto sfondo di un presente immondo cela la soluzione più mera dentro ai suoi occhi. Dare amore, fare sempre di meglio nei nostri giorni. Per questo quando partirò avrò già i bagagli pronti. Non parlo di magliette o pantaloni corti, ma parlo di valori da insegnanti folli. Che ascoltarli oggi ormai siamo rimasti in pochi sciocchi. E non è detto che non sia la nostra croce. Diversi perché il mondo ci sbrana e ci oscura la voce. Ma io non temo questa bestia feroce e punto in alto sempre, vado dritta alla foce. Che poi forse fra tutte le rincorse, la vita e le sue impronte, sulla pelle tagli sotto agli occhi borse, resta la purezza dentro un cuore enorme. Grazie mai, va, seguo le orme. Dite a mia madre che l'amo quando io partirò. Dite a mio padre che nel dubbio lui mi ispirerò. E se sarò lontana basta cambiare scala. Tipo una mille da un centimetro che ci separa. Dite a mia madre che l'amo quando io partirò. Dite a mio padre che nel dubbio lui mi ispirerò. E se sarò lontana basta cambiare scala. Tipo una mille da un centimetro che ci separa. Dite a mia madre che l'amo quando io partirò. Dite a mio padre che nel dubbio lui mi ispirerò. E se sarò lontana nel mappamondo in sala. Cerca il mio volto e guarda, solo un palmo ci separa.